دم باش هبل ام دست به که دخوازین صلاح و ریزی خواهش وارگه هم مخمور بشکشی بشداروان او حوالین. Prima di tutto vorremmo mandare i nostri saluti dal campo profughi di Mahmur. Ci sono stati attacchi simultanei nel campo profughi di Mahmur, nelle montagne di Kandil e nella regione dello Sengal. Condanniamo tutti questi attacchi che hanno colpito obiettivi civili. Anche se siamo felici di comunicare che non abbiamo subito vittime e che nessuno è morto in seguito a questi attacchi, ci sono diversi feriti e vorremmo sollecitare la comunità internazionale a fare qualcosa per interrompere questi attacchi ingiustificati contro i civili della regione. Mi rivolgo all'opinione pubblica in tutto il mondo. Abbiamo testimoni del fatto che il 14 giugno 2020 il campo profughi di Mahmur è stato colpito ancora una volta ed è successo di fronte al mondo intero. Abbiamo una sola colpa, c'è un solo crimine che abbiamo commesso. Vogliamo vivere come tutte le altre nazioni sulla terra e godere degli stessi diritti umani. Per avere una vita dignitosa non abbiamo accettato le atrocità, non ci siamo inginocchiati di fronte allo Stato turco e abbiamo resistito diventando rifugiati nel sud del Kurdistan e nel nord dell'Iraq, così da essere in grado di condurre la nostra vita con dignità e con onore. Al momento stiamo vivendo in una piccola città chiamata Mahmur e siamo rifugiati riconosciuti sotto la protezione dell'UNHCR, del governo centrale di Baghdad e del governo regionale del Kurdistan. Le atrocità del governo turco non si sono mai fermate negli ultimi 26 anni e non hanno nessuna intenzione di fermarsi e i più recenti attacchi sono la prova del fatto che continueranno a perpetuare atrocità contro di noi. A causa dell'indifferenza delle Nazioni Unite, del governo di Baghdad e del governo regionale del Kurdistan, l'atrocità degli attacchi turchi non si è mai fermata. Queste autorità dovrebbero proteggerci, siamo sotto la loro protezione, ma a causa della loro indifferenza e del loro silenzio la Turchia continua ad attaccarci. Per questo condanniamo il silenzio complice delle Nazioni Unite, del governo di Baghdad e del governo regionale del Kurdistan. Il silenzio da parte delle Nazioni Unite e della comunità internazionale apre la porta agli attacchi turchi e ci preoccupa per la sicurezza del nostro popolo, dei nostri bambini, delle ragazze e dei ragazzi, perché gli attacchi continui potrebbero colpirci in qualsiasi momento e siamo spaventati per la nostra sicurezza. Il cosiddetto mondo occidentale democratico, l'Unione Europea e tutti gli altri paesi che si presentano come democratici e promotori dei diritti umani stanno rimanendo in silenzio nonostante questi attacchi a causa dei loro interessi economici nella regione. Questa è una vergogna per tutti loro e per tutti i valori che dovrebbero rappresentare. Chiediamo al mondo occidentale perché rimangono in silenzio di fronte a un tale livello di ingiustizia e alla violazione dei diritti umani, così come lo chiediamo al governo iracheno che tace anch'esso davanti a questi attacchi, nonostante violino la sua sovranità di Stato indipendente. A causa del coronavirus, dei crescenti attacchi dell'ISIS, dei bombardamenti turchi e dell'embargo imposto dal governo regionale del Kurdistan, noi stiamo soffrendo e chiediamo a tutta la comunità internazionale e a tutti coloro che sono stati in silenzio finora di comprendere quello che sta succedendo e far sentire la propria voce contro le ingiustizie che ci sono imposte. Questi poteri che agiscono nel nome dei curdi impongono l'embargo e rendono così difficili le nostre condizioni di vita, dovrebbero ricordare che nel 2014, quando l'ISIS ha attaccato la regione, lo abbiamo combattuto insieme. 4 combattenti del nostro campo sono caduti nella lotta contro l'ISIS e altre 20 sono state ferite. Più avanti ci sono stati altri 3 martiri e molti altri abitanti del campo che sono stati feriti nella lotta all'ISIS. Dopo ogni attacco informiamo la comunità internazionale, le Nazioni Unite e il governo iracheno delle vittime. Per esempio, nel 2017 5 abitanti del campo sono stati uccisi in seguito ai bombardamenti. Nel 2018 4 giovani donne sono state uccise negli attacchi aerei del governo turco e nel 2020 3 bambine hanno perso la vita in seguito agli attacchi. Abbiamo informato tutte le organizzazioni rilevanti e il governo iracheno delle morti e di questi attacchi. Sono anche state coperte dalle televisioni locali che hanno documentato tutto con le telecamere. Ci sono anche stati alcuni ufficiali che hanno visitato i siti degli attacchi e hanno visto tutto quello che sta accadendo nella regione con i propri occhi, ma a causa dell'inazione degli ufficiali di fronte a questi incidenti, adesso gli attacchi dell'ISIS contro di noi stanno aumentando. E allo stesso modo il cofondatore dell'ISIS, Erdogan, sta incrementando gli attacchi contro di noi. Noi siamo venuti qui per vivere una vita dignitosa e abbiamo pagato un prezzo molto alto per essere in grado di vivere una vita onorevole e non torneremo indietro e non rinunceremo. Abbiamo vissuto in pace, non abbiamo avuto problemi con i nostri vicini, né abbiamo mai violato le leggi del governo iracheno. Abbiamo vissuto così e continueremo a vivere in questo modo, ma dovrebbero sapere che questa repressione e queste atrocità non ci faranno arrendere e non ci impediranno di vivere una vita dignitosa. Ancora una volta condanniamo tutte queste atrocità nel nostro campo e sollecitiamo la comunità internazionale a prendere le decisioni necessarie per prevenire questi attacchi e proteggere le donne e i bambini in questo campo. In questa occasione chiediamo anche che il governo regionale curdo interrompa l'embargo sulla regione e lasci che le persone vivano una vita pacifica. Infine ci rivolgiamo alla comunità internazionale, alle forze democratiche, perché hanno la responsabilità morale di prendere parola di fronte a una tale ingiustizia. Quando diciamo che dovrebbero far sentire la propria voce e prendere una posizione, non ci riferiamo semplicemente a una lettera di condanna, ma ci aspettiamo e chiediamo risposte concrete. In questo senso salutiamo e ringraziamo tutte le persone nel mondo che sono scese in strada a protestare e hanno preso parola di fronte a questi attacchi e le ringraziamo per la loro solidarietà e il loro supporto.